Si incamminò nel corridoio di malumore. Quando giunse nella stanza, vide che suo cugino non era sul divano, ma coricato nel grande letto. Quando lei entrò, non volse neppure la testa verso la porta. Era segno di bufera e il malumore di Mary crebbe ancora di più. «Perché non ti sei alzato?» gli chiese con il suo modo indisponente di signorina sempre no. «Mi ero alzato stamattina, quando pensavo che saresti venuta», rispose Colin senza guardarla. «Ma poi mi sono fatto rimettere a letto nel pomeriggio. La schiena mi faceva male, la testa mi faceva male. Ero molto stanco. Perché non sei venuta?» «Avevo da fare nel giardino con Deacon», rispose lei. Colin aggrottò la fronte e la fissò. «Non permetterò più a quel tizio di entrare a Misselthwaite, se tu per andare con lui non vieni qui a parlare con me». Mary sentì la rabbia montarle rapidamente alla testa. La sua era una rabbia fredda e controllata, ma non per questo meno forte. Disse, parlando lentamente, con voce sicura, incurante di quello che poteva succedere. «Se tu non lascerai più venire, Deacon, puoi star sicuro che io non metterò mai più piede qui dentro». «Oh, lo farai se io vorrò», replicò lui. «Toglitelo dalla testa. Staremo a vedere, ordinerò che ti trascinino qui. Credi di farmi paura, piccolo Raja? Tu potrai anche farmi trascinare qui dentro, ma nessuno potrà obbligarmi a parlare una volta qui. Mi metterò seduta con la bocca chiusa, terrò anche i denti stretti, così, guarda. Non ti dirò neanche una parola, non ti guarderò neanche. Preferirò tenere i miei occhi sul tappeto piuttosto che in faccia a te». Sembravano due galletti in lotta. Se fossero stati due ragazzini qualunque si sarebbero certamente presi a pugni e se le sarebbero date di santa ragione. Loro invece cercavano di farsi male con le parole. «Che bella egoista che sei!» gridò lui. «Senti chi parla! Tutti gli egoisti danno sempre il titolo che compete a loro agli altri quando non li accontentano. Tu sei un bel po' più egoista di me, caro signorino. Tu sei il più lurido egoista del mondo». «Non è vero!» strillò Colin. «Egoista è il tuo bell'imbusto, quel di colà che ti tiene a giocare nel letame, mentre sa che io sono qui da solo. Ecco chi è un lurido egoista, lui, non io». Gli occhi di Mary mandavano fiamme. «Smettila di dire stupidaggini. Deacon è il ragazzo più caro e più buono del mondo. Deacon è un angelo». «Bellino il tuo angioletto», sogghignò Colin. «È un bifolco, ecco cos'è. Beh, è meglio essere un bifolco buono che un raja volgare e maligno, 1000 volte meglio». Mary era la più forte e cominciava ad avere la meglio. Il fatto era che Colin non si era mai trovato di fronte a qualcuno che gli tenesse testa e non aveva mai potuto litigare con nessuno. Aveva solo e sempre fatto i suoi capricci e vedendo la gente impaurita intorno a lui non aveva fatto altro che infuriarsi sempre più. Ora invece viveva un'esperienza nuova e buona per lui, anche se al momento né lui né Mary se ne rendevano conto. Non sapendo più cosa rispondere, affondò il viso fra i cuscini, chiuse gli occhi e grosse lacrime cominciarono a solcargli le guance. Sentiva pietà verso se stesso, non sentiva dispiacere per avere maltrattato gli altri. «Io non sono egoista come te», mormorò. «Io sono malato. Nella mia schiena sta per sbuntare quel bozzo. Io ho poco da vivere ancora. Morirò presto». «Basta con queste balle. Lo sai che non è vero», disse Mary senza mostrare il minimo segno di compassione. Lui spalancò gli occhi, indignato. Nessuno aveva mai osato contraddirlo così. Era furibondo, anche se in fondo quella sicurezza di Mary gli faceva piacere. È difficile che una persona possa provare contemporaneamente questi due sentimenti, ma per lui era così. «Ah no, eh? Non è vero? Tu sai benissimo invece che è vero. Tutti lo sanno che è vero», la sfidò. «Per me no. Io non ci credo», replicò Mary aspra. «Tu lo dici solo per impressionare la gente, per farla star male. A me pare anche che tu ne sia perfino contento, orgoglioso. Io non ci credo. Se tu fossi un bambino buono, ma così pestifero come sei, lo sai che l'erba cattiva non muore mai?» Dimenticandosi della sua schiena malata, Colin si sedette sul letto in preda a una rabbia furiosa che però era un bene per lui. «Vattene! Vai fuori da questa stanza!» urlò e, afferrato un cuscino, glielo scagliò contro. Non era abbastanza forte per tirarlo lontano e così il guanciale cadde ai piedi di Mary, che aveva il viso contratto per la stizza. Me ne vado, non aver paura, me ne vado e non tornerò più». Si avviò verso la porta e quando fu sulla soglia si voltò indietro e disse: Ero venuta per raccontarti un sacco di cose belle. Il Deacon è venuto assieme al suo volpacchiotto e al suo corvo. Volevo dirti tutto di loro. Ora invece me ne vado senza raccontarti niente. Aprì la porta e la richiuse violentemente dietro di sé. Nel corridoio c'era l'infermiera che stava ridendo. Cosa c'è da ridere? Chiese Mary con la sua aria più gelida. Rido di voi due, rispose lei. È la cosa migliore che potesse capitare a quel bambino viziato trovare qualcuno capace di ribattere ai suoi capricci. Soffocò le risa nel fazzoletto. Se avessi avuto sempre accanto una sorella o un fratello per litigare, non sarebbe nelle condizioni in cui è ora. È vero che morirà presto? Chiese Mary. Non lo so, chi può rispondere a una domanda così? Quello che è sicuro è che è un isterico, un temperamentale, un ragazzino prepotente e viziato. Ecco, questi sono i suoi malanni più gravi. Cosa vuol dire isterico? Chiese ancora Mary. Oh, lo vedrai tra poco se si farà venire una delle sue crisi, com'è probabile dopo questa baruffa con te. Ma almeno oggi ha una ragione per farsela venire la crisi. Ah, io sono proprio contenta. Mary ritornò nella sua stanza di un umore molto diverso da quello che aveva quando era tornata dal giardino. Era arrabbiata e scontenta, ma non sentiva il minimo rimorso per la baruffa con Colin. Era andata da lui così ansiosa di parlargli, di metterlo a parte anche del grande segreto, e ora aveva cambiato idea. Non gli avrebbe detto niente, non avrebbe mosso un dito per farlo uscire, per portarlo in giardino. Che si arrangiasse, che se ne restasse chiuso per sempre con la sua cattiveria, con la sua prepotenza. Era così irritata che per pochi minuti dimenticò anche quelle meravigliose giornate passate con Deacon, quel velo verde che stava ricoprendo la terra e quel venticello pieno di profumi che veniva dalla brughiera. Marta l'aspettava e il suo viso non era più preoccupato, ma piuttosto ansioso di sapere com'era andata. Sul tavolo davanti al caminetto c'era uno scatolone. Il coperchio era stato sollevato e si vedevano dentro tanti pacchetti ben confezionati. Guarda cosa ti ha mandato, Mr. Craven, disse Marta. Mary si ricordò di quello che lo zio le aveva chiesto. Vuoi libri, giocattoli, bambole? E si mise ad aprire i pacchetti chiedendosi se per caso ci fosse una bambola. Cosa ne avrebbe fatto? Non le piaceva giocare con le bambole. Non aveva un'idea di come si potesse giocare con quelle cose lì. Ma non c'era nessuna bambola. C'erano molti bellissimi libri illustrati del tipo di quelli che aveva Colin e due di essi parlavano di piante e di giardinaggio. C'erano poi due o tre giochi da tavolo e una scatola di pelle che aveva sul coperchio due lettere in oro, ML, e dentro tutto il necessario per scrivere, una penna d'oro e un calamaio di cristallo. Tutti quei regali erano così belli e così raffinati che le fecero passare di colpo la rabbia che aveva in corpo. Non si aspettava che lo zio si ricordasse di lei, e vedere tutti quei bei doni le fece sentire una gran gioia nel cuore. Io non scrivo bene in stampatello, disse Marta, ma in corsivo sì, e la prima cosa che scriverò usando questa penna sarà una lettera a Mr. Craven per ringraziarlo. Se fosse stata in armonia con Colin, sarebbe volata a fargli vedere tutte quelle belle cose. Avrebbero sfogliato insieme i libri, avrebbero guardato le figure, letto qualcosa di giardinaggio. Avrebbero provato a fare quei giochi da tavolo e lui si sarebbe divertito e non avrebbe pensato più alla morte o a tastarsi la schiena alla ricerca del bozzo. Lei non lo sopportava quando faceva così. Si sentiva a disagio, c'era qualcosa di morboso, di spaventoso in quella sua ossessione. Da una frase di Mrs. Medlock, bisbigliata all'infermiera e da lui ascoltata senza farsene accorgere, aveva dedotto che questa famosa gobba sarebbe dovuta spuntare presto, annunciandosi sotto forma di un bozzo che sarebbe andato crescendo giorno dopo giorno. Aveva continuato a pensare a questa cosa e con l'immaginazione si era creato una serie di prospettive mostruose. Colin aveva detto una volta a Mary che quelle che gli altri chiamano crisi non erano altro che sfoghi della grande paura che c'era in lui, delle malattie che potevano venirgli. Mary aveva sentito molta pena per quel ragazzino così solo. Ora, ripensandoci, si diceva: le sue crisi scoppiano quando si sente stanco o è arrabbiato. Forse oggi ha pensato solo alla sua gobba tutto il pomeriggio e per questo era così nervoso e mi ha trattata così male. Rimase a lungo immobile a pensare a quello che era successo. I suoi occhi seguivano i disegni del tappeto senza vederli perché tutta la sua mente era rivolta al cugino. Gli ho detto che non sarei tornata mai più da lui, pensava sentendo dispiacere per quella sua decisione, Ma forse, se lui mi chiamerà, forse domani mattina potrei andare a vederlo. Alla peggio tenterà ancora di buttarmi addosso il suo cuscino, però io, sì, credo che io ci andrò lo stesso. Capitolo 16. Una crisi. Questi pensieri furono interrotti da Marta che portò la cena. Mary mangiò in fretta perché aveva molto sonno e voleva andare a dormire. La giornata era stata piena di emozioni. Il lavoro in giardino era stato entusiasmante, ma anche un po' faticoso, e gli occhi quasi le si chiudevano. Quando entrò nel letto, fece appena in tempo a mormorare a se stessa: "Domani mattina devo alzarmi presto e ancora prima di fare colazione devo andare subito da Deacon. Tornerò per prendere il mio tè e per andare a vedere Colin." E si addormentò. Poteva essere mezzanotte quando fu svegliata da urla e grida così forti che la fecero balzare fuori dal letto senza che quasi se ne accorgesse. Ma che cosa stava succedendo? Passato il primo momento di dormiveglia, riconobbe i rumori e capì cosa significavano. Porte si aprivano e si richiudevano sbattendo, passi concitati si susseguivano nei corridoi e c'era qualcuno che strillava e piangeva, piangeva e strillava in modo violento e agghiacciante. "È Colin", disse a se stessa. "Ha una di quelle crisi isteriche, come dice l'infermiera. Ma come urla, sembra una bestia, fa proprio paura. Non mi meraviglio che la gente che gli sta intorno cerchi di accontentarlo sempre, pur di non sentire questi strilli." Si tappò le orecchie con le mani, ma quelle orribili grida le arrivavano lo stesso. La impressionavano e la facevano star male. Si ridistese sul letto, mise la testa sotto il cuscino. Tutto inutile. "Cosa posso fare? Cosa posso fare?" si chiede. "Non riesco proprio più a sopportare questi pianti." Pensò di andare a vedere Colin, ma poi si ricordò del modo con il quale l'aveva cacciata e pensò che forse la sua presenza avrebbe potuto irritarlo ancora di più. Ma non riusciva a non sentire quelle urla e così cominciò ad arrabbiarsi, a diventare nervosa, a desiderare di far passare a Colin quello che lui stava facendo passare a lei. Si tolse le mani dalle orecchie, scattò in piedi. "Qualcuno deve fare qualcosa. Sì, devo farlo smettere. Tirategli due sberle!" urlò fuori di sé. In quel momento sentì dei passi avvicinarsi nel corridoio e la porta si aprì. Era l'infermiera con un viso pallido, stravolto. "È una delle sue crisi", disse con aria agitata, "ma stavolta sta proprio male, non riusciamo a calmarlo in nessun modo. Tu non vorresti venire a darci una mano? Lui ha simpatia per te, forse ti ascolta." "Avessi visto come mi ha cacciata oggi, non si merita niente, niente", ribatté Mary, accompagnando le sue parole con energiche pestate del calcagno destro per terra. Il viso dell'infermiera si illuminò di un sorriso. Aveva temuto di trovare Mary spaventata e impressionata. Il vederla invece così decisa le dava una speranza di successo. "Ecco, sei proprio quello che ci vuole. Vai e parlagli con il tono che hai usato adesso. Bisogna scuoterlo, farlo pensare ad altro. Ti prego, fai presto." Mary si avvicinò di corsa per il corridoio. Man mano che avanzava, le urla di Colin si facevano più forti e la sua rabbia cresceva. Quando arrivò alla camera del cugino era proprio furibonda. Spalancò la porta con violenza e la mandò a sbattere contro il muro. Poi, a gran passi, si avvicinò al letto. "Piantala!" urlò forte. "Piantala! Non ne posso più di te! Nessuno ne può più. Spero che tutti se ne vadano via e tu resti qui solo a urlare finché sarai stufo. Dici che devi morire solo perché vuoi spaventare gli altri, ma sai una cosa? Sarebbe una bella idea che tu morissi una volta per tutte." Una ragazzina buona e gentile non avrebbe mai detto delle cose così, anzi, non le avrebbe neppure pensate. Ma la reazione che le parole di Mary operarono in Colin fu assolutamente positiva. Lui non aveva mai avuto nessuno che si opponesse ai suoi capricci o lo contraddicesse, e questa nuova cosa era una buona medicina per lui. "Se fai ancora uno strillo, mi metto a urlare anch'io, e io so gridare più forte di te. Urlerò così forte che ti spaventerò, come tu fai spaventare gli altri." Colin smise di colpo di gridare e di tirar pugni, e morsi al cuscino, e volse di scatto il viso verso quella vocetta furiosa che gridava contro di lui. La sua faccia era pallidissima, macchiazzata di macchie rosse, gonfia tanto da far quasi sparire gli occhi, bagnata di lacrime e scossa da un continuo singhiozzare. Mary non si fece né in qua né in là quella vista. "Non posso smettere", ansimò lui. "No, non vedi come sto male? Non posso smettere, non posso." Sì, invece che puoi, strepitò Mary. Metà dei tuoi mali sono solo isterismi, isterismi, isterismi e basta. Ogni volta che ripeteva quella parola imparata dall'infermiera, batteva con forza un piede per terra. Ho sentito la gobba, c'è la gobba nella mia schiena, la gobba è già qui, la mia morte è ormai vicina. Cominciò a riagitarsi nel letto, riaffondò il viso fra i cuscini e continuò a singhiozzare, ma non strillò più. Tu non hai sentito niente di niente di quella tua antipatica di schiena. Sono sicura che non c'è nessuna gobba, sei tu che te la immagini. Ti immagini tutte queste cose con i tuoi isterismi. Girati e fammi vedere. A Mary piaceva molto quella parola, isterismi, e sembrava avere un certo effetto anche su Colin, che probabilmente non l'aveva mai sentita prima. Ma alla sollecitazione di Mary, Colin rimase fermo. Infermiera, ordinò allora lei, voglio vedere immediatamente questa schiena. L'infermiera, Mrs. Medlock e Martha erano tutte e tre impietrite vicino alla porta e seguivano quello che stava succedendo come se fosse uno spettacolo. Ma erano molto in ansia perché si chiedevano come sarebbe andata a finire e non si sentivano per niente tranquille. L'infermiera fece qualche passo verso il letto. Colin stava zitto, ma ogni tanto era scosso dai singhiozzi. Forse, disse la donna esitando, forse lui non vuole. Colin la udì e fra un singhiozzo e l'altro disse: Mostrate, gliela, la. Era proprio una povera schienuccia, magra e gracile, quella che si presentò agli occhi di Mary quando l'infermiera ebbe tolta la giacca del pigiama a Colin. La spina dorsale era assai visibile e le vertebre si sarebbero potute contare ad una. Mary si avvicinò al letto, fece scorrere la mano sulla colonna vertebrale e la esaminò attentamente con la stessa gravità di espressione che avrebbe potuto avere un gran dottore. Ci fu qualche minuto di silenzio. Anche Colin cercava di trattenere i singhiozzi mentre Mary continuava a osservare dall'alto in basso e dal basso in alto la schiena del cugino. Qui non c'è assolutamente nessuna gobba, sentenziò alla fine. Qui non c'è nemmeno l'ombra di un bozzo piccolo come una capocchia di spillo. Ci sono solo le ossa della schiena e quelle si sentono così bene perché sei magro. Si sentivano nello stesso modo anche le mie prima che cominciassi a ingrassare. Ancora non sono abbastanza grassa da non sentirle più, ma non sono più così sporgenti come lo erano qualche mese fa. Insomma, su questa schiena non c'è niente di quello che dici, non c'è nessunissimo bozzo, nessunissima gobba. Se ti sentirò ancora parlare di queste cose ti riderò in faccia. Solo Colin poteva apprezzare in pieno il bene che quelle parole dette con tanta serietà da quella ragazzina arrabbiata provocarono in lui. Se lui si fosse confidato con qualcuno sulle sue paure, o perlomeno avesse risposto alle domande che gli venivano fatte, se avesse avuto una vita normale in compagnia di altri bambini, invece che starsene tutto il giorno a pensare a sé e ai suoi guai, chiuso dentro quella enorme casa vuota, se non avesse respirato per giorni, mesi, anni, l'atmosfera pesante della compagnia di gente che stava vicino a lui solo per lo stipendio e lo serviva ma non lo amava, ecco che avrebbe scoperto che i suoi malanni erano in gran parte frutto delle sue paure e delle sue fantasie. Ora, ascoltando questa ragazzina dai modi bruschi, che restava indifferente ai suoi capricci e anzi li controbatteva con energia, cominciava a intravedere questa possibilità. Se avessi saputo che temeva di essere diventato gobbo, avrei potuto rassicurarlo anch'io. Azzardò debolmente l'infermiera. La sua schiena è debole perché non vuole mai star seduto, alzarsi, camminare, muoversi, ma è perfettamente normale. È vero quello che dici? Chiese Colin con aria lacrimosa. Certo, signore. Soddisfatto? Chiese Mary. Ma lei stessa tirò un sospiro di sollievo, rassicurata dalle parole della donna. Colin volse di nuovo la testa verso la parete. Il suo respiro era ancora un po' affannoso, ma si sentiva già che la bufera andava allontanandosi. Ora Colin piangeva silenziosamente e le lacrime gli bagnavano il viso, ma erano lacrime di sollievo. Si girò verso l'infermiera e le chiese, senza quell'aria da rogia che gli era solita: Allora potrò diventare grande? Vivere? L'infermiera non era né un'aquila né una persona che si commuoveva facilmente, ma si ricordò delle parole di quel dottore di Londra e le ripeté, contenta di poter consolare un po' quel povero ragazzino. Penso che potrai farlo, se ascolterai quello che ti dicono gli altri e non vorrai sempre imporre la tua volontà anche a chi ne sa più di te e parla per il tuo bene, non per farti dispetto. Dovrai cercare di avere una vita più normale, non star sempre chiuso, uscire all'aria aperta, devi darti coraggio. La crisi di Colin era passata, ma lui si sentiva debole e sfinito per tutto quel gran piangere e urlare, e questo lo rendeva più malleabile. Sporse una mano verso Mary, che a sua volta, acquietata la rabbia, era nella stessa disposizione d'animo. Anche lei sporse una mano verso di lui e si incontrarono così, a mezza strada, per fare la pace. Io voglio uscire con te, Mary. Mi piacerà uscire se troveremo. Si fermò in tempo e invece di dire il giardino segreto, terminò con queste parole: Deacon, disposto a spingere la mia carrozzina, voglio conoscerlo, vedere il petirosso, la volpe, il corvo. L'infermiera si dette da fare a rimettere a posto il letto, che si era quasi disfatto, sprimacciò i cuscini, preparò una camomilla per Colin e ne dette una tazza anche a Mary. Vai a dormire adesso, disse poi rivolta alla ragazzina. Lui si è finalmente calmato e si addormenterà presto. Vado a letto anch'io, ma sono nella stanza accanto. Se dovessi aver bisogno, chiamerà. Mary si rivolse a Colin. Vuoi che ti canti quella canzone della mia Ayah? Gli occhi grigio agata assunsero un'espressione implorante. Sì, ti prego. Vai pure a letto tu, disse allora Mary all'infermiera. Resterò io con lui, fino a quando dormirà. Bene, ma se fra mezz'ora non dorme, chiamami. D'accordo. La donna se ne andò in fretta e appena fu uscita, Colin strinse di nuovo una mano di Mary, dandole uno sguardo d'intesa. Stavo per lasciarmi sfuggire il segreto, bisbigliò. Per fortuna mi sono fermato in tempo. Ora devo dormire, non possiamo parlare, però tu mi hai detto che avevi tante cose belle da raccontarmi. Per caso hai scoperto qualcosa del giardino segreto? Mary guardò quel viso scomposto e quegli occhi ancora gonfi per il gran piangere e si intenerì. Sì, disse, credo proprio di sì. Adesso dormi, ti dirò tutto domani mattina. Oh, Mary, Mary, se io potrò entrare un giorno in quel giardino, credo che riuscirò a guarire, che potrò diventare forte, potrò crescere e vivere. Non potresti invece della canzone della tua Yah raccontarmi come quella prima volta che ci siamo visti, come tu immagini che sia il giardino segreto? Va bene, acconsentì Mary e cominciò a parlare con una voce molto bassa e lenta. Io credo che essendo rimasto chiuso per tanto tempo sia diventato quasi come un bosco, ma un bosco bello, perché tutti i rosai che c'erano saranno cresciuti disordinatamente, i rami si saranno allungati in tutte le direzioni e saranno diventati, intrecciandosi gli uni con gli altri, come dei castelli aerei nei quali i loro nidi. Molte piante di rose saranno morte, ma certamente ce ne saranno tante ancora vive. Per ora molti rami sono spogli, sono come una nebbia grigia. Ma appena verrà caldo si copriranno di foglioline verdi e poi ci saranno cascate di rose, pergolati di rose, cespugli di rose. Io credo che in terra ci sia un tappeto di erba ancora un po' secca, ma qua e là già un po' verde. E fra poco spunteranno le giunchiglie, i bucaneve, i geggioli, i gigli che stanno ancora lavorando sottoterra. Ma ora che la primavera è quasi arrivata, forse. Gli occhi di Colin si erano chiusi, ma la sua mano stringeva ancora quella di Mary. Forse qualche fiore è già spuntato? C'è qualche bocciolo di crocus, viola o giallo? Si vedono delle striscioline, ancora non sono sbocciati del tutto. Forse c'è un velo verde che ricopre i rami sul muro e piano piano va stendendosi dappertutto. E gli uccelli volano felici là dentro e forse, abbassò il tono di voce e cercò di liberare la sua mano dalla stretta. Il petirosso ha trovato la sua compagna e stanno costruendo il loro nido. Sfilò del tutto la sua mano da sotto quella di Colin senza che lui aprisse gli occhi o facesse resistenza. Rimase ancora un po' a guardarlo e quando fu sicura che fosse addormentato sul serio, se ne andò piano piano in camera sua.